Racconti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Di Radio 24, buongiorno, buon sabato 11 di aprile, che si chiama Stanislao, non solo lui ma oggi è San Stanislao. Siamo qua in diretta ai studi della radio di Milano alle 17 primi 40 secondi per questa nuova ruggente, un po' aspra, lo sapete, puntata cattivella. Un po' cattivella, puntata di Conti la Belva con i compari qui riuniti, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio e Oscar Giannino, che vi salutano e che come sempre vi invitano a partecipare alla puntata di cui vi do adesso in sintesi i temi di cui parleremo. Ricordo a tutti che il numero di telefono è 800 24 00 24, 349 238 6666, il numero per mandarci le vostre opinioni, i vostri sms che poi leggiamo in trasmissione su diversi temi, e naturalmente poi sui social e su Twitter c'è, cioè l'account Conti della Belva. Allora, di che cosa andiamo a parlare oggi per verificare se volete intervenire oppure no? Beh, c'è un tema di fondo che unirà più o meno molte considerazioni, perché partiremo come sempre da Seminerio in crisi, cioè dai conti della crisi italiana rispetto a quello che è successo questa settimana sui conti del lavoro e non solo, e per capire che cosa i numeri dicono, al di là di quello che la politica poi gli vuole fare dire. Ma il filo rosso poi anche degli altri temi sarà il DEF, il documento economico finanziario, che ieri sera tardi il governo ha varato dopo che aveva iniziato a parlarne martedì, perché al di là del DEF di cui parleremo, e parleremo alla fine delle due ore anche con un ospite, il professor Colombatto, che insegna a Torino, uno dei pochi liberisti doc in carta nel nostro paese, però la parola magica ieri è diventata il tesoretto. E quindi vi spiegheremo che cos'è il tesoretto. Okay. La parola tesoretto fa venire l'itterizia al nostro compare Mario. No, tesoretto, no. Ho detto tesoretto, cioè, non te la prendere, dai. La parola dolce che tra amanti, tesoretto, cioè tra Stato e contribuenti violentati, sì, diventa improvvisamente tesoretto. Vi parleremo del DEF, qui c'è in atto una vera e propria strategia di seduzione da parte del nostro renziano Carlo Alberto nei confronti dello scettico, emotivatamente scettico, Mario. Comunque, oltre a parlare del DEF, a un certo punto, siccome il DEF fa un grande vanto di considerare finita alle spalle la stagione delle tasse, ma chi l'ha detto che ci sono nuove tasse? Incontro con i comuni, nessuna tassa in più, peccato che sia nessuna tassa in più rispetto all'aumento delle tasse già disposto nella legge di stabilità per l'anno prossimo, quindi capite che si è molto disinvolti nel farvi capire una cosa che in realtà vuol dire un'altra, tant'è vero che parleremo proprio un esempio degli aggravi che arrivano, visto che non è un caso che leggerete sui giornali si sta parlando di aumentare la tassa per tutti i viaggiatori nei porti, negli aeroporti, per finanziare che cosa? Per finanziare le città metropolitane, perché lì intervengono dei tagli invece che di aumenti di dotazioni. Però questo viene tradotto e annunciato con un niente nuove tasse. E poi domanda che facciamo a tutti voi: ma visto che abbiamo aumentato il PIL della bellezza di quasi 4 punti l'Istat grazie alla stima dell'economia illegale e poi degli investimenti e di alcune riclassificazioni di poste della contabilità pubblica, però insomma l'economia illegale, la prostituzione e la droga da sole hanno contato per un bel punto di PIL aggiuntivo. Allora, visto che l'abbiamo utilizzato per rendere ai vostri occhi, ai nostri occhi, la pressione fiscale e il debito pubblico meno pesanti, ma perché non li legalizziamo e li tassiamo a questo punto pure? Sareste scandalizzati? Esamineremo questa proposta dal punto di vista favorevole, dal punto di vista negativo. Ci sono diversi esami in corso tra Camera e Senato di progetti di legge su questo argomento. Chiamate per dirci la vostra, sia che vogliate esprimere il vostro sdegno o approvazione morale, ma soprattutto attenti anche a un aspetto, quello economico, che non è esattamente secondario, visto che li utilizziamo nel PIL a questo punto. Non tanto vorrei vale dire strutturali e organizzarli, già noi lasciamo qui adesso la prostituzione. Carlo Alberto sul termine strutturale e organizzare fa pensare di avere qualche obiettivo imprenditoriale. Certo, insomma, è un antico business di grande valore anche dal punto di vista dello sviluppo del PIL, ormai lo sappiamo. È ufficializzato, quindi vedo che qui c'è qualche ambizioncella. Allora, che cosa vi ha fatto arrabbiare in settimana? Comincia Mario stavolta, che è più arrabbiato. Allora, partiamo dalla fine. Ieri sera nella conferenza stampa di presentazione del DEF abbiamo scoperto che ci sono delle risorse da 1,6 miliardi che diciamo verranno utilizzate, non è ancora ben chiaro per cosa, già si stanno scatenando tutti, ho sentito la sinistra del PD per combattere la povertà, vogliono un trenino elettrico, il subbuteo e altre cose, ma come nasce questi 1,6 miliardi di tesoretto? Nascono dalla differenza tra il rapporto deficit-PIL tendenziale e quello programmatico. Cioè, per parlare in termini non tecnici, c'è questo 0,1%, 2,5% invece il governo si porterà al 2,6%, vi pregherei di riflettere sul fatto che abbiamo chiuso il 2014 al 3%, e si genera quindi con un tratto di penna, proprio dall'aria out of thin air, come dicono gli americani, aria fritta, si generano 1,6 miliardi che il governo deciderà di destinare nelle prossime settimane, ha detto il Presidente del Consiglio, probabilmente posso prima delle anche, elezioni, esatto, entro sì, sarà, quale data? Probabilmente sarà circa una settimana prima delle elezioni, però... Per farvela breve, visto che siamo ancora in fase introduttiva, la cosa che colpisce di più è che alcuni di voi, diciamo, si lamentano dell'attività delle banche centrali, no? Che stampano denaro dal nulla, però vi pregherei di notare che in questo caso, dal versante della politica fiscale, abbiamo un governo che fa lo stesso lavoro delle banche centrali, esatto. Cioè stampa denaro inesistente, perché i tendenziali, i programmatici sono scritti sulle nuvole, sul vapore acqueo, e stampa denaro dal nulla e poi penserà come redistribuirlo. E soprattutto direi, per riuscire a fare andare gioiosamente la coda alla sinistra PD e alla sinistra sociale di questo paese, che oltre ad avere seri problemi con l'economia, con l'alfabetizzazione e con i numeri, evidentemente vivono immersi nel loro mondo fatato e quindi stanno già copiosamente salivando. Eccoci, e a questa salivazione per la creazione virtuale dal nulla di moneta pubblica a qualche giorno da elezioni che erano un po' delicatucce, perché un po' meno trionfali in apparenza dai sondaggi del 40% in tasca delle vecchie europee, invece per cosa si è arrabbiato Carlo? No, per una cosa purtroppo più triste, che è quello che è successo al Tribunale di Milano in questi giorni, non tanto per l'evento in sé, ma per l'uso strumentale che viene fatto, sia sul fronte del presunto attacco ai magistrati, sia sul fronte del presunto segnale della crisi economica. Mi spiace, ma un caso è un caso e nessuna legge statistica ci autorizza a generalizzarlo, soprattutto quando viene fatto strumentalmente a fini o ideologici o politici o di casta o di categoria. Francamente è inaccettabile, sia perché è un atto doloroso, è un atto grave, sia perché induce nella gente questa connessione tra il singolo episodio e una legge generale. Ecco, diseducare la nazione a questo genere di ragionamenti è un grandissimo contributo alla stupidità collettiva. Io aggiungo, Roberto, che ancora a stamane io non ho trovato su nessun grande giornale italiano, ho trovato su un giornale romano che ha ricordato ai suoi lettori ieri che le responsabilità delle norme di sicurezza all'interno dei tribunali e all'esterno non è di esterni rispetto a magistrati che vengono lasciati soli e in balia di terroristi potenziali o di malintenzionati. Per ogni distretto giudiziario le norme vigenti prevedono che sia il procuratore generale della Corte d'Appello a concordare con il prefetto le norme di sicurezza interne ed esterne. Io non ho visto nessun grande giornale ricordare che quindi se al Tribunale di Milano gli avvocati e altri entrano senza essere identificati precisamente e senza passare controlli, questo dipende dal fatto che queste norme sono concordate, ripeto, dal procuratore generale della Corte d'Appello con il prefetto. Forse bisognava intervistarlo il procuratore generale della Corte d'Appello, che dite? E invece no, perché sennò questo poi fa crollare l'intero impianto che abbiamo lasciato ai magistrati in balia del clima negativo. Seconda cosa, scoprire adesso che per il giusto obiettivo del governo, lo vedremo tra poco, di sostituire il più possibile i contratti a tempo indeterminato con il contratto a tempo determinato, nel caso in cui non bastassero il 1,8 miliardi stanziato per quest'anno dal governo, scoprire adesso che in quel caso sono le imprese che pagano di più con l'aumento dei contributi, perché questa è la novità che trovate in apertura del Sole questa mattina, questa è una roba che sfiora l'indecenza. Perché capite che dopo aver detto che il grande obiettivo numero uno dell'occupazione per il governo era questa, e capisco, e adesso dire vi abbiamo dato dei contributi, ma non bastano, adesso pagate voi, questa è veramente, se va a finire così, contate sul fatto che la mia capacità di trovare nuove maniere di perculare il governo diventa verticale, perché è una presa per i fondelli. Speriamo che questa idea che gira nella maggioranza e nel governo gliela facciamo tornare indietro. Torniamo tra un minuto. Della belva. Allora, eccoci qui tornati in diretta a 10:18 primi 48 secondi in questo sabato 11 di aprile. San Sanislao, i compari vi salutano. Carlo Alberto, Mario e Oscar Giannino, e come sta diventando appuntamento fisso la nostra trasmissione, all'inizio noi vi ricordiamo i semplici numeri della crisi della settimana, tentando di spiegare che cosa i numeri dicono davvero e non il tentativo di prestarli, di piegarli alle logiche contrapposte, di dire no, tutto va bene, no, tutto va male, perché i numeri impariamo a trattarli con una certa attenzione. Quindi la sigla del nostro appuntamento settimanale del seminario in crisi. Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Sto vivendo una crisi. Oh, a me sembra ieri, ma invece sono passati già un po' di annetti da quando Morgan era quel Blu Vertigo. Ma comunque, vabbè, detto tutto questo, questa settimana è sempre in crisi, ragazzi, comunque è strutturalmente in crisi. Però io ho un debole, devo ammettere, per Morgan. Ha fatto molto per la musica in Italia, proprio educativamente. Ha sono fatto molto d'accordo. Ha spiegato meglio di quanto ha cantato, se posso dire. Beh, sì, ha spiegato, ha innovato, ha fatto anche innovare. Però questo dovremo qualche volta approfondire. Tesoretto, prego, ecco. Mario, dai. No, allora, devo dire. Allora, questa settimana abbiamo avuto, Mario, qualche altro esempio di tentativo di far dire ai dati quello che non dovrebbero dire. Io ricomincerei da quei numeri del lavoro dell'INPS. Tu che dici? Sì, allora l'INPS comunica praticamente da questo mese, il 10 di ogni mese, INPS molto meritoriamente comunicherà i dati sui nuovi contratti a tempo indeterminato e di conseguenza anche le trasformazioni. Quello che è emerso questo mese è che i nuovi contratti a tempo indeterminato crescono in maniera significativa nel primo bimestre di quest'anno rispetto al primo bimestre dello scorso anno, e tuttavia compensano esattamente il calo dei contratti di apprendistato e dei contratti a tempo determinato. La somma è zero lungo l'anno, o meglio c'è un aumento di 13 e non 13.000, 1.300, 13 milioni, 13 posti di lavoro a tempo indeterminato in più nel tendenziale degli ultimi 12 mesi. 13 su denominatore di quanto era? 900.000? Sì, esatto, su 900, oltre 950.000. Per cui questa è l'ennesima conferma. Allora, intanto un plauso, diciamo, al fatto che appunto abbiamo dati ad alta frequenza che ci serviranno effettivamente per tenere il polso della situazione, quindi un plauso a tutte le istituzioni, l'INPS, l'Istat e quant'altro, che ci stanno fornendo questi dati. Questo tenderà a ridurre il margine di manovra propagandistica del nostro governo, però sono certo che dopo quello che ho visto ieri sera, diciamo, c'è una prateria davanti in termini di fantasia. Per cui questo è il dato di fondo. Poi questa settimana, tra l'altro, abbiamo anche appreso quello che sappiamo da anni, cioè che il cosiddetto federalismo fiscale italiano in realtà è una spoliazione, una predazione fiscale, perché non c'è stata nessuna riduzione della pressione fiscale centrale con il suo spostamento verso la periferia, quindi in maniera tale da dare somma zero, ma abbiamo avuto la somma, la giusta posizione alla pressione fiscale centrale anche della pressione fiscale periferica. E questo è un dato di cui noi eravamo già assolutamente consapevoli, ma che è sempre utile ribadire. Per cui la sintesi di tutto questo discorso, poi ci sarebbe anche da parlare dei grandi numeri del DEF, nel senso che mi pare che emerga che il governo si gioca tutto. Allora, lo scorso anno il governo si giocava tutto sul 2015, quest'anno si giocano tutto sul 2016. Il 2015 sarà l'anno di come dire, preparazione, di accumulazione, di carica della molla, e poi nel 2016, secondo gli intendimenti del governo, dovrebbe esserci questo boom con un PIL nominale che cresce del 3%. Qual è il punto? senza tediarvi troppo tecnicamente. Il governo ipotizza nel 2016 di ridurre il deficit strutturale in rapporto al PIL, quindi quello corretto per il ciclo economico, solo dello 0,1%. Ora, il famoso niente tagli, posso dire. Esatto, no, ma allora come si può, diciamo, con un PIL che è previsto crescere nominale del 3%, invocare le circostanze eccezionali depressive della congiuntura? Siccome io ho visto che nel DEF il MEF, visto che stiamo parlando per acronimi, e quindi il ministro Padoan, ha fatto scrivere che tutte le enormi riforme che il governo sta attuando giustificano condizioni eccezionali per il rallentamento della correzione strutturale, come andrà a finire? Ci sarà un enorme negoziato con Bruxelles, per cui il governo si tenta e proverà ancora per il 2016, come ha fatto per il 2015, ad allungare questa minestra e questo brodo. Poi un ultimo punto, giusto per stare sul liofilizzato. Avete visto che il governo ha iscritto nel DEF i proventi da privatizzazione. C'è stata una diluizione significativa, perché ricordate, lo scorso anno il ministro Padoan diceva: avremo proventi da privatizzazioni e dismissioni pari allo 0,7% del PIL per 3 anni, esatto. Il che fa un cumulato di 2,1. E invece adesso su un arco temporale di 4 anni il governo stima uno 0,4 e si arriva all'1,8% su 4 anni. Ora è più realistico sicuramente, perché a mio modo di vedere non c'è tutta questa roba da privatizzare e dismettere. So che magari Oscar non è d'accordo, però realisticamente qui e ora io non lo vedo. Però diciamo che il governo ha messo delle ipotesi realistiche ed intellettualmente oneste sul 2015, sotto le quali però si nasconde il giochetto di andare a reiterare la richiesta a Bruxelles. E guardate che una mancata correzione di deficit PIL strutturale di 4 decimi di punto sono 8 miliardi, certo, che è la metà della clausola di salvaguardia che è attesa scattare nel 2016. Fammi però chiarire questo aspetto sul deficit strutturale, Mario, perché è un po' un trucco logico e politico. Se l'Italia è in crisi, allora è giusto che abbia più tempo per correggere il deficit, ma se l'Italia esce dalla crisi perché facciamo più 3% di nominale, allora quell'elasticità che abbiamo così tanto faticosamente ottenuto giustamente deve rientrare, esatto, perché se cresce, quindi delle due l'una: o torniamo a crescere e quindi niente elasticità o meno elasticità sul deficit strutturale, oppure non è vero. Quindi sono previsioni contraddittorie nella logica europea, che ti dà flessibilità a una condizione che tu non stia crescendo. Perfetto, perfetto, assolutamente così. Allora, la risposta a questa domanda, che è una delle domande centrali del DEF, lo so che voi, per voi che siete in ascolto, il rischio di considerarci degli astrusi acchiappanuvole che parlano di cose strane, difficilmente comprensibili, tanto più il sabato mattina, mentre i giornali vi propongono una brutale sintesi del DEF, ma ci sono più tasse o ci sono più spese, e poi soprattutto c'è il tesoretto, perché l'abilità del Presidente del Consiglio è stata come al solito quella di che è il DEF del tesoretto. Allora, il punto di fondo però è che la nuova disciplina, che da un po' di tempo ha cambiato la maniera di impostare le decisioni pubbliche di finanza, cioè quella europea, che a molti non piace, che secondo me invece imbriglia un po' di più la politica, perché deve dire prima, non può inventarsi sorprese e così via, consente la risposta a questa domanda centrale di Mario Seminerio: ma com'è possibile che loro, che spostano ancora di un anno, però a quel punto hanno una crescita di PIL nelle due componenti, reale da inflazione, quindi il PIL nominale, così elevata, e come si fa a dire all'Europa facci tagliare meno il deficit e magari facci slittare di un altro anno il raggiungimento dell'obiettivo dell'azzeramento del deficit corretto per il ciclo, che già è slittato da 2016 al 2017, magari arriviamo al 2018. Ecco, la risposta nel DEF è data in tutta una parte proprio tecnica per economisti, che è lo sviluppo della parte dell'anno scorso introdotta da Padoan su come si calcola questa specie di cosa arcana che è la differenza tra il PIL reale e il PIL potenziale, cioè l'output gap. C'è un gruppo di lavoro, perché l'Italia ha detto all'Europa: la vostra maniera di calcolare questa differenza statisticamente non ci convince. E in questa parte tecnicamente molto fine del DEF si spiega come e qualmente, poiché la differenza, quindi l'output gap tra PIL reale e PIL potenziale per l'Italia, che aveva superato secondo i conti italiani ben il 4%, mentre la stima europea è di molto più bassa, ha molto margine per potersi azzerare e diminuire, ed è esattamente quello uno degli argomenti di fondo per cui si dice sì, il nostro PIL andrà molto bene perché noi siamo ottimisti sulle nostre riforme, però voi ci dovete dare molto margine perché c'è questo criterio di cui noi non siamo convinti, perché noi abbiamo perso più prodotto potenziale di quello che voi stimate, cattivoni, perché avete dei modelli econometrici fatti per l'Europa delle grandi imprese tedesche e non per quella delle piccole imprese italiane. So che sono cose barbose, però la differenza su queste cose è che poi può cambiare all'ultimo secondo da un sì o da un no dell'Europa il fatto che ci arrivano una stangata di miliardi di tasse in più, quindi ha la loro logica parlarvi di queste cose. Ma in sintesi, poi torneremo alla fine a riparlare del DEF con l'ospite del professor Colombatto, a voi la prudenza delle stime, ma la decisione di non tagliare di più e soprattutto di non accelerare su tagli fiscali veri, poiché se non si tagliano non si fanno quelli, vi convince oppure è una cosa poco adatta al tasso per il momento molto lento di ripresa italiana? Carlo Alberto, tu che dici? Ma a me serve un'idea chiara di che modello di welfare e che modello di spesa pubblica vuole questo governo, che ha cacciato Cottarelli, ha promesso grandi interventi ma non ha ancora chiarito che nuovo modello di spesa. Allora qui ritocchi marginali o addirittura la dichiarazione zero tagli sono di nuovo fumo negli occhi degli italiani. Io penso che gli italiani abbiano il diritto di sapere che modello di spesa pubblica andiamo ad impostare per i prossimi anni, non per il budget del 2016 ma proprio per il futuro nostro, dei nostri figli. Questa cosa i governi la stanno sistematicamente eludendo. Capisco il governo Monti che era in emergenza, il governo Letta non ha avuto tempo ma ha avuto almeno il merito di provare a fare una spending review strutturale, questo governo ha disfatto quello precedente, ma di modelli, non di spending review ma posso dire di budget review, che è diverso, proprio di profonda revisione delle scelte di fondo, non li ha ancora fatti. Al contrario, tira fuori Tesoretti all'ultimo momento promettendo prebende preelettorali non meglio specificate. L'esatto contrario di quello che deve fare un governo di rifondazione, non dico liberale, ma no, rifondazione repubblicana, lo posso dire rifondazione repubblicana? Tu che nel sei senso stato... francese. Ecco, esattamente. Lo so, però per il momento lui trova un modo per rispondere al fatto che cadeva nei sondaggi, e questo mi sembra utile ricordarlo, perché non è... la politica si fa col consenso, e di fronte al fatto che queste regionali sono complicate perché la destra è sfasciata, però il PD non è esattamente in un momento molto brillante delle sue vicende interne, e ci sono situazioni delicate, perché capite che De Luca non è proprio un candidato strepitoso in Campania, capite che in regione Liguria discreto casino. In Veneto certo sì, Tosi ha indebolito Zaia, però il PD partiva da una posizione che non era esattamente di forza, e allora insomma tesoretto. Però diciamola tutta, il mio timore, così rispondo anche alla tua domanda, il DEF è apparentemente realistico, poggia su ipotesi eroiche, però il mio grande timore, visto che non si sta facendo nulla di sostanziale, è che noi passiamo dal governo Renzi al governo Ponzi. E questo, nel senso è di lo schema, no, nel senso dello schema Ponzi, per cui lo schema Ponzi, che creare tesoretti dal nulla con un tratto di penna, no, questo mi inquieta molto come cittadino e contribuente. Su Tom Ponzi, perché devi immaginare che per chi è in ascolto, magari Ponzi evoca Tom Ponzi, lo schema Ponzi, esatto. Che è uno schema, diciamo così. Però c'è un ascoltatore che fregature finanziarie. C'è un ascoltatore che ci chiede di spiegare bene da dove salta fuori il tesoretto. Sì. È di fatto un arbitrio contabile tra due dimensioni, entrambe soggettive e politiche, quindi quello 0,1 di PIL, che è, insomma, è la misura dello scarto, in realtà è una interpretazione contabile, un po' come è una speranza. Quindi non è un tesoretto esistente, è una differenza fra una proiezione e un'altra proiezione, diciamolo tutta. Si doveva avere un deficit PIL del 2,5 nel 2015, si va al 2,6, è uno 0,1% di deficit in più, considerando che noi abbiamo un PIL di 1600 miliardi e rotti, questo libera, si fa per dire tra molte virgolette, 1,6 miliardi, quindi spero che sia così, sia più chiaro. Signori, spesa in deficit uguale pomicino, è chiaro? Io la penso così, sono brutale. Se vi dicono che questo è rigore, io sono alto, biondo, bello e fico, è una fregatura, è la solita maniera democristiana per vincere le elezioni. È 1,6 miliardi, poca roba? No, è il principio che è intollerabile, è il principio, perché è una spesa in deficit aggiuntiva, dicendo finito lo speso del rigore. Te credo se cominci a rifare spesa in deficit. Ma chi vuoi prendere per il culo? Scusate, sono brutale, ma io mi sento preso per i fondelli, soprattutto nel leggere i giornali in cui tutto questo non c'è. Sembra che noi siamo stati così virtuosi che abbiamo scoperto che, mamma mia, avevamo delle risorse aggiuntive perché abbiamo fatto meno deficit, ne facciamo di più. E quindi chi lo volete che lo paghi? Avete la risposta a questa domanda? L'avete capito come va a finire? Siete pronti alla pomatina per il fondo schiena? Perché tanto così finisce. E torniamo tra poco. Della belva. Eccoci qui tornati in diretta dopo avervi spiegato in che cosa consiste il tesoretto più deficit, è come se fosse invece spacciato per virtù. Siamo qui a salutarvi, compari di Conti la Belva, Carlo Alberto, Mario, Oscar, e andiamo a un punto, argomento, siccome come avrete capito non è finita la lunga strada della ricerca di nuove risorse attraverso le quali rendere sostenibili spesa pubblica ingente e debito pubblico che continua a salire anche nel tavolo del DEF. Ovviamente la domanda che vi facciamo è questa: ma poiché nel 2014 con nuovi criteri statistici europei, SEC 2010, abbiamo inglobato ancora più potentemente di quanto non fosse prima l'economia illegale, cioè la droga, la prostituzione, il contrabbando, rivalutando il PIL di quasi 4%, 3,8%, abbiamo battuto tutti i paesi europei in questo. E lo abbiamo fatto perché? Per darvi l'illusione che il debito pubblico del signor Stato, non virtuoso, fosse meno più pesante, perché capite che se uno trucca il denominatore nel calcolare la frazione, l'effetto poi sarà di un PIL che, rispetto di un debito pubblico sul PIL, che è inferiore, invece il debito pubblico continua a salire. E lo stesso vale per l'effetto che vi farà la pressione fiscale, perché quel 43,5% è calcolato su un PIL insufflato di 4 punti in più rispetto all'anno precedente. Ma da chi le tasse non le paga? E così via. E vi dicono che la pressione fiscale non è salita grazie a questi trucchetti contabili, non dimentichiamocelo. Ma allora ci diciamo noi, visto che viene utilizzato a vantaggio dello Stato per l'abbellimento statistico degli aggregati pubblici che continuano a essere più pesanti e sembrano invece fermi o miracolosamente tornare all'indietro, perché non utilizzare almeno una parte di queste attività illegali, cioè cominciando da quelle relative alla prostituzione, per legalizzarle e tassarle? Visto che siamo il primato europeo di chi stima per oltre un punto di PIL aggiuntivo rispetto a quello che già c'era inglobato nel PIL di attività illegali e di prostituzione, la prostituzione l'Istat l'ha messa nel PIL per almeno 3-5 miliardi, poi ci sono molte stime, c'è chi dice che valga 5, chi 6, chi 7 miliardi, stime di quante persone in Italia ogni anno si prostituiscano, tra 70 e 100 mila, stima tra i clienti italiani 7, 8, 9 milioni, ecco, insomma è un fenomeno di queste proporzioni qua. Allora la domanda che ci poniamo noi è: perché non legalizzare e perché non tassare? Lo sfondo è diverse proposte di legge che tra Camera e Senato sembrerebbero in maniera bipartisan volere arrivare a questo stesso obiettivo. Ovviamente è un tema delicato per l'impatto che ha sui centri urbani, sulla morale pubblica, sulle attività criminali che in realtà continuano a esserci nella prostituzione, nella tratta delle schiave, nei segmenti bassi e bassissimi di questo che mi fa un po' impressione, ma bisogna pur chiamare mercato, mentre invece altri segmenti non sono abbastanza liberi e immuni da forme di violenza, di sfruttamento di reti internazionali. Allora, prima di arrivare ai nostri ospiti, brevissimamente le nostre opinioni in merito, favorevoli o contrari? Che dici, caro Alberto? Assolutamente favorevole. Sai, la prostituzione è un mercato, che ci piaccia o meno, siamo noi che gli attribuiamo valori morali o etici impropri, più o meno come succede per esempio con il settore dell'alcol o della droga in altri paesi, no? Ricordo che in tantissimi paesi è vietato bere vino, per esempio, per ragioni etiche o religiose. Però devo dire, il bello della prostituzione in questi anni è che è cambiata molto, perché sia lato domanda, ci sono meno soldi, sia lato offerta, c'è più, come dire, libertà di circolazione. Il bello del famoso idraulico polacco è che ha portato anche qualcuno qualcun altro sull'offerta locale, non voglio dire niente. Poi c'è un tema di tecnologie, sì, perché noi parliamo di zone rosse, non so bene perché, di territori, Ne parliamo perché per molti sindaci lo zoning è diventata una delle soluzioni. Ne parliamo, sì, però ci sono sindaci analogici, scusami, ormai il modello di matching, di incontro fra domanda e offerta da anni, e questo è un grande contributo che internet ha dato al settore, è quello di usare marketplace online. Quindi stiamo ragionando di prostituzione come nell'Ottocento, con le pruderie, anche con, se però sai benissimo che per l'amministratore locale esiste ancora il tema di le strade provinciali di accesso ai grandi centri urbani, le strade periferiche eccetera, dove ci ho sono, ho capito, ma se la proibiamo, se facciamo del proibizionismo la nostra bandiera repubblicana, è chiaro che poi spingiamo le persone per strada. Tu favorevole a legalizzare e a tassare. Mario, che dice? Ma io non, sono una posizione abbastanza incerta, fermo restando che nella misura in cui è frutto di una libera scelta e non di una coercizione, di uno stato di necessità, credo che nulla osti, diciamo, ad una regolamentazione. Però vorrei dire anche, guardando l'aspetto fiscale, che mi pare che stiamo evolvendo verso un tale controllo, diciamo, dei flussi e quant'altro, che alla fine, se vogliamo dircela tutta, queste operatrici verseranno pure questo denaro su un conto corrente. E alla fine sono monitorabili, alla fine possono ricevere delle domande per giustificare questi flussi di contante, giusto? Cioè, per cui in astratto mi sa che la regolamentazione, se andiamo avanti di questo passo, arriva, ma per via fiscale. Sì, ma piuttosto che controllare a valle i flussi in deposito, fammi regolarizzare a monte e rendere tutto questo una normale prassi di scambio di servizi. Come delle cooperative. Allora, però cooperative, no, attenzione, non vorrei suggerire qualcosa di politico a livello subliminale, diciamo, ok. No, no, non facciamo campagna elettorale. No, per carità, per carità. Ragazzi. Poi già lo fanno del loro, per cui. Tu dici. Le cooperative, sì. Intendo dire. No, no, la campagna elettorale, attraverso quelle cose con cui le indagini poi delle procure si sviluppano. Sentiamo due ospiti per aggiungere punti di vista ai nostri da questo punto di vista. Noi abbiamo chiamato un economista che ha scritto più volte sulla voce.info degli argomenti centrali di cui parliamo oggi, ma anche delle valutazioni economiche degli aspetti che sono collegati a questa profonda questione, perché ripeto, ci sono problemi dedicati nell'amministrazione delle comunità pubbliche, nello sviluppo e nella riqualificazione delle aree urbane, nell'equilibrio economico di tutte le esternalità che sono implicate in questa vicenda. E quindi è con noi per parlarne Giovanni Mordino, che insegna economia all'Università Federico II di Napoli. Grazie professore. Buongiorno. Buongiorno. E poi per l'aspetto parlamentare, per farci spiegare un secondo se c'è chance davvero di una convergenza tra i vari disegni di legge presentati da più partiti su questo argomento, c'è il Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, onorevole Pierpaolo Vargiu. Buongiorno e grazie di essere con noi, onorevole. Buongiorno, grazie dell'invito. Posso cominciare dal professor Mordino per capire innanzitutto se la sua valutazione lo vede favorevole a una, tra virgolette, legalizzazione anche a fini fiscali, però in quel caso come si fa a distinguere i diversi segmenti di un mercato in cui dentro ci sono ancora forme di sfruttamento gravissimo che invece vanno combattute nazionalmente e internazionalmente, e poi quali sono le esternalità anche negative di una soluzione di questo tipo dal punto di vista economico, secondo lei? Sì, intanto dobbiamo dire che appunto la prostituzione non è un reato, quindi parlerei più di regolamentazione. E se ho capito bene la proposta di legge, sono 5 punti quelli fondamentali, che si tratta dello zoning, le tasse, i controlli sanitari, l'obbligo del preservativo e il contrasto alla tratta e il reinserimento sociale. Quindi potremmo commentare anche ognuno di questi. Mi pare di capire che il primo che ha sottolineato lei, che forse le interessava particolarmente, era l'aspetto delle tasse. Ora, su questo aspetto in particolare non sono particolarmente d'accordo, perché comunque la tassa è prima di tutto un incentivo che spingerà a lavorare illegalmente, e questo avrà ripercussioni negative ad esempio sui controlli sanitari, perché se il nostro scopo è, come diceva giustamente lei, di cercare di diminuire o eliminare i costi sociali e quindi tra gli altri i rischi sanitari, i controlli sanitari sono quindi un ingrediente fondamentale. Se noi spingiamo queste persone verso il nero per evitare ad esempio le tasse, perdiamo anche questo aspetto positivo dei controlli sanitari. Tra l'altro bisogna dire che gli introiti sono abbastanza ridicoli, se voglio fare l'esempio della Germania, che sarebbe un sistema relativamente simile al nostro nel caso passasse questa legge. In Germania nel 2012 sono stimate più o meno 8.000 sex workers e gli introiti fiscali nel 2012 sono stati 679.000 euro. Questo è tutto, 679.000 euro. Quindi l'aspetto delle, cioè, se pensiamo di fare cassa, no, quindi sia... lo Stato naturalmente dice, qui le stime sono 70.000, 90.000, lì sono 8.000, però detto questo lei dice soprattutto se pensiamo di mettere innanzitutto gli effetti positivi da ricavare da una regolamentazione dal punto di vista socio-sanitario, guardate che mettere le tasse come prima cosa significa spostarli al nero. Certo, è un'obiezione del professor Mordino che capisce che per me che sono vorrei una pressione fiscale generalmente molto più bassa, perché penso che questo sia il fenomeno che avviene in tutte le attività economiche, sentirmelo dire solo sulla prostituzione mi fa prudere le mani alla lingua, però che io capisco perfettamente che cosa vuol dire. Adesso abbiamo la supply side della prostituzione, molto interessante, molto affascinante. Allora, torniamo tra un minuto con i nostri ospiti su questo tema e poi con le vostre telefonate. Un minuto. I conti della belva. Eccoci qua, tornati ai conti della belva con i compari che vi salutano. Ciao Alberto, Mario e Oscar. Stiamo parlando del legalizzare, io ho usato apposta questo verbo, il professor Immordino, che è il nostro ospite, che è intervenuto prima, mi ha detto, beh no, regolamentare, perché in realtà la prostituzione non è reato, però non è proprio così, vero? No, io ci tengo a distinguere, siccome la prostituzione richiede un modello organizzativo ben studiato, tant'è vero che c'erano le case chiuse una volta, perché serve pulizia, serve controllo sociale, serve controllo sanitario. Proibire l'organizzazione della prostituzione, pensando che sia un atto professionale individuale, è profondamente stupido, inefficiente e moralistico. Quindi mi spiace dirlo, ma de facto noi stiamo impedendo l'organizzazione efficiente aziendalistica dei sex workers, che è una gran stupidaggine, perché questo rende efficiente, trasparente e anche molto più, adesso dovrei dire, molto, cioè a un livello di servizio più elevato, più trasparente. Devo ammettere che ho scoperto soprattutto l'entusiasmo di Carlo Alberto. Ma io sono entusiasta tutte le volte che possiamo parlare liberamente, senza infingimenti, senza finzioni etiche, di un mestiere che posso dire che è antico come il mondo. Semmai c'è un problema di, come dire, di elasticità. Solo la politica viene dopo di quel mestiere. No, al massimo il calcio, diciamo. Però la verità è che parlare in maniera ironica e però corretta di questo tema, e invece il progetto di legge è ancora una volta pieno di pruderie, pieno di modalità, come se dovessimo vergognarci di una cosa che in realtà è strutturale. Sentiamo per Paolo Vargio e poi torniamo al professor Immordino. Sentiamo per Paolo Vargio, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera. Allora, le sintesi giornalistiche uscite invece sembravano preludere a una vastissima convergenza, PD, voi siete di Scelta Civica, pezzi del mondo moderato di Forza Italia, 5 Stelle, ma ci siamo? Quale sarà il punto di caduta probabile di questa vicenda a tanti decenni dalla legge Merlin, secondo lei? Guardi, non ci siamo, va detto con onestà, perché stiamo iniziando un percorso insieme con la senatrice Spilabotta, che presenterà le proposte alla Camera, e siamo che del PD. Che sia del PD. E siamo convinti che, io sono liberale e cattolico, siamo convinti che sia necessario acchiappare un sacco di gente su questa roba, perché questa roba possa vincere i pregiudizi un po' anche da carnevale e da argomento pruriginoso che l'hanno sempre... che hanno sempre acchiappato questo tema. Noi pensiamo che sia un tema invece di civiltà, e pensiamo che oggi, come ha detto il professore, la prostituzione sia già legale in Italia, ma debba essere regolamentata. Debba essere regolamentata perché oggi è una cosa sporca per quanto riguarda la dignità della donna, perché i falò nelle strade provinciali che portano alle città sono una cosa che offende la dignità della donna, è una cosa sporca per la libertà della donna, perché i racket che portano prostitute, spesso anche minori da paesi extracomunitari senza visto d'ingresso, sono una cosa che offende la libertà di scelta dell'individuo, comunque uno dal punto di vista etico la voglia osservare, sono una cosa sporca per i controlli sanitari e le malattie sessualmente trasmesse sono in crescita in Italia, il 90% dei clienti che vanno alle prostitute chiedono rapporti non protetti, e questo la dice lunga sul dramma culturale che avvolge la professione. è una cosa sporca dal punto di vista fiscale, perché chiunque esercita un lavoro deve contribuire con le tasse al bene della propria comunità, e devo dire anche delle garanzie in cambio, perché ha delle garanzie previdenziali, ha delle garanzie di tipo pensionistico, e soprattutto mettono un po' di soldi in più in quei percorsi di cui spesso ci si riempie la bocca, che sono i percorsi di reinserimento sociale di chi decide sempre liberamente di abbandonare l'idea di vendere il proprio corpo, e che oggi sono nei convegni, nei dibattiti e nelle parole di tanti, ma poi se non sono fatto economicamente non hanno gli strumenti. Allora, professore Mordino, visto che l'Istat italiano ha fatto pesare lo smercio di droga nell'aumento del PIL del 3,8%, è stato da solo considerato il PIL in Italia per 10,5 miliardi di euro, in Germania 1,52 miliardi. Allora, faccio questo esempio per capire che nel nostro sistema di contabilità nazionale ci sono delle evidenti sproporzioni rispetto a come applichiamo gli stessi principi comunitari. Fino a questo momento noi la droga e la prostituzione l'abbiamo utilizzata per far bella figura allo Stato, per così dire, perché è così. Se noi andiamo a paragonare Italia, Spagna, Olanda, Gran Bretagna, qua sono sfiorati tutti i dati, non voglio annoiare nessuno di quelli che ci ascolta, ma nel 2014 l'Istat ha usato così droga e prostituzione rispetto a tutti gli altri paesi. Lei giustamente dal suo punto di vista dice: guardate che se volete pensare a chissà quale gettito, scordatevelo, però a questo punto regolamentare senza anche immaginare una piena emersione fiscale ha senso? Seconda domanda, secondo lei è meglio cominciare da politiche, quelle ad alto impatto sociale nelle città e così via, tipo lo zoning e così via, piuttosto che dalla questione fiscale? I costi sociali a cui tipicamente si fa riferimento sono la violenza sulle prostitute, la tratta, la perdita di valore degli immobili della zona, sì, i rischi sanitari, lo stigma, no? Quindi la regolamentazione sicuramente è un più per quanto riguarda i rischi sanitari, per quanto riguarda lo stigma, perché dà dignità, come diceva giustamente l'onorevole, e può aiutare a combattere la violenza, perché comunque permette di lavorare, diciamo, in maniera più trasparente. I problemi negativi, diciamo, gli aspetti negativi che vedo possono essere almeno legati allo zoning per quanto riguarda la redistribuzione dei costi sociali, quindi magari legati anche alla perdita di valore degli immobili, però ci possono essere dei meccanismi per risolvere, ad esempio compensando attraverso l'esenzione parziale o totale dell'IMU o della TASI le persone che abitano in una zona che è stata scelta dal comune. Questa è una possibilità. Una cosa che mi sembra qualificante della proposta di legge è il contrasto alla tratta e il reinserimento, sì, sociale, sì, perché con la regolamentazione io penso che ci si possa aspettare un aumento della quantità, perché probabilmente aumenterà la domanda, perché diventerà più semplice in qualche modo e meno costoso trovare delle prostitute sul territorio, perché l'accresciuta tolleranza della prostituzione può spingere verso questo mercato soggetti che prima non ne facevano parte. Quindi l'aumento della domanda, se non c'è un aumento dell'offerta volontaria, potrebbe spingere alla tratta. E quindi è importante, quando regolamentiamo, prevedendo la possibilità di un aumento della quantità, combattere in maniera molto decisa la tratta e favorire anche il reinserimento. Il fatto che ci sia questo aspetto penso sia fondamentale. Anche secondo me questo è uno degli aspetti che con le solite politiche fino a questo momento seguite non ha avuto nessun tipo di risposta sostanziale, a dire la verità. Sentiamo Manfredo che ci chiama da Firenze, come la pensa? Manfredo, prego. Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutte le bestie. Le bestie della belva, sì, esattamente. Alla belva bestiale. Sì. Dunque, io sono assolutamente favorevole sia alla liberalizzazione o alla legalizzazione, sia della prostituzione che delle droghe leggere. Io ascoltavo prima i vari intervenuti e non riesco a capire se vivano su Marte o sulla Terra. Parlare di mancanza è stupendo, perché ormai si dice ma su Marte solità siamo oramai un pianeta a parte in quanto Italia. No, ma esatto. Guarda che al di là del lapsus in realtà è vero, siamo un pianeta a parte rispetto al resto. Allora dicevi, scusami. No, perché voglio dire, sentivo parlare che se si legalizza e si fanno pagare le tasse alle prostitute ci saranno meno controlli sanitari, ma io la trovo perché faranno il nero, cioè lo stanno già facendo a bestia. Io quando tornavo a casa prima che cambiassi casa dal parco delle Cascine di Firenze, ci passavo alle 5:30, alle 6 pomeriggio, vedevo delle prostitute che ti giuro io non l'avrei neanche avvicinate, per quanto e quindi tu dici è un po' difficile immaginare che possa venire il peggio. Grazie Manfredo, perché ci abbiamo il taglio assoluto. Ci sentiamo dopo Giornale Radio. Della belva. Sì, siamo qua, adesso arriva anche Oscar. Ma qui ci sono i golpe, ragazzi, ma non facciamo come il governo che decontribuisce i contratti a tempo determinato e poi dice alle imprese di soppiatto: guardate che sarete voi a pagarli. Pagano quelli che non hanno ricevuto il beneficio. Spieghiamolo a tutti i renzisti all'ascolto e a quelli che ci dicono che siamo dei soloni accademici. Spieghiamolo. Dei gufoidi siamo. Esatto, spieghiamolo. Non so se... Ma voi non vi arrabbiate a casa? Ma come? È la bandiera di questo governo, i contratti che aumentano finalmente tutti a tempo indeterminato grazie al fatto che finalmente un governo ha decontribuito in maniera sostanziale il fatto che tutti i nuovi contratti a tempo determinato abbiano una decontribuzione, e adesso cosa scopriamo? Che se non basta 1,8 miliardi sono le imprese a pagare? Le gestioni previdenziali già ampiamente massacrate nell'ultimo anno, poi ci vengono a dire che gli italiani non investono in economia reale e non sanno fare asset allocation del proprio risparmio. Quindi gestioni previdenziali, datori di lavoro del settore privato e lavoratori autonomi nel caso di incapienza, e nel caso ci sarà un grande successo delle trasformazioni con i nuovi contratti di lavoro, per poter avere capienza sulla decontribuzione vi beccherete sui denti, cari datori di lavoro e cari risparmiatori che state pensando al vostro futuro, un contributo, e come si chiama questo contributo? Di solidarietà. Siete solidari. Ma io dico, ma scusi onorevole Matteo Ponzi, scusi ma onorevole Matteo Renzi, anzi onorevole dottor Matteo Renzi, che non è neppure parlamentare, meglio, ma visto che abbiamo fatto un 0,1% dal nulla e abbiamo creato 1,6 miliardi, non potevamo fare la stessa cosa anche qua? E ci sono soldi tanto, per tutti? Appunto. E questa è la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato. Sono tutti sbollinati. Sì, no, veramente è una cosa oscena. Ragazzi, spacciare come fanno i media stamattina, moltissimi media, per virtù del governo e tesoretto, una roba che è deficit aggiuntivo, ripeto, vecchio metodo da prima Repubblica sotto elezioni, deficit con provvedimenti spacciati come necessari, ma deficit, se noi dopo tanti anni di crisi della finanza pubblica italiana ricaschiamo in questo riflesso condizionato, in questa trappola elementare, i topi siamo noi che finiscono in trappola, cioè i contribuenti, siamo stupidi. Io devo dire la verità, ce l'ho molto con i miei autorevolissimi, molto più titolati di me, molto più puri e mondi da ogni errore che io ho commesso, gravissimo, direttori di grandi giornali. Non si può, di fronte a un politico che ti spaccia deficit aggiuntivo come tesoretto virtuoso, adottare la sua convention linguistica. Devi spiegare ai tuoi lettori e ascoltatori che deficit aggiuntivo. Poi sull'utilizzo, sulle finalità, la politica vive di consenso, benissimo, ma di fronte a una roba come la decontribuzione, che finisce adesso per essere finanziata, come vi ha spiegato Mario Seminerio, è un obbligo, a prescindere da come la si pensi politicamente, è un obbligo tirare fuori le baionette, perché scusate, e invece lo chiamano bonus, trattasi di malus, esatto. È un malus fiscale. Allora, a proposito del fatto che il grande DEF ha come parole d'ordine basta nuove tasse, non c'è bisogno di tasse di spesa, di tagli di spesa aggiuntivo, ci tagli di spesa aggiuntivo, mi resta solo dirvi che nell'incontro con il comune è stato detto che non ci sono tagli di spesa aggiuntivi oltre quelli già disposti pluriennalmente, quindi per il 2016 ci sono e restano i tagli di spesa crescenti già disposti con la legge di stabilità, oltre a quelli non ce ne sono altri. Naturalmente tutti i media vi hanno fatto capire che non ci sono più i tagli di spesa per i comuni. Non è vero. Quanto alle nuove tasse, anche lì la convention del governo è dire quella linguistica, la neurolingua, come dice spesso Mario, è quella di dire non ci sono aumenti d'imposta maggiori di quelli previsti, anzi di quelli previsti noi non vi tassiamo per il punto di PIL previsto dalla clausola di stabilità, e questo è il nocciolo del DELF. Ma gli altri aumenti, quelli fuori dalla clausola di stabilità, cioè l'aumento di IVA e accisa, quelli restano se erano già previsti. Quindi la trattativa aperta con gli enti locali sulla local tax, che potrebbe ulteriormente aggravare il bilancio delle imposte che ci escono di tasca sugli immobili, da una parte, e altre modalità come quelle che trovate sui giornali di addizionali locali, tipo la tassa sui viaggiatori, porti e aeroporti. Avete trovato sui giornali ipotesi di aumentare da 1 euro fino a 3 euro, c'è cioè chi dice addirittura fino a 5 euro per finanziare i tagli avvenuti alle città metropolitane. Ecco, adesso parliamo di questa roba qua, perché queste cose qui invece restano, ed è compito dell'informazione dire a voi tutti che restano, che non è vero che ce ne siamo liberati. Per parlare esattamente di questo abbiamo con noi Guglielmo Loi, segretario confederale della UIL, perché la UIL ha appena fatto un bel rapportone, se andate sul sito ve lo potete scaricare, su come negli ultimi anni sono aumentate le addizionali locali e il fisco, negli ultimi due anni, negli ultimi due soli anni aumenti medi del 7,5%, lasciamo perdere il Lazio, lì c'è stato il record con del 48%, quindi buongiorno e grazie di essere con noi Guglielmo Loi. Buongiorno e buon lavoro. E grazie anche a Guido Castelli, che è sindaco di Ascoli, ma è qui, oltre che come sindaco di Ascoli, come responsabile finanza locale dell'ANCI, perché da lui vogliamo sapere in realtà come stanno le cose rispetto al fatto che i tagli ai comuni erano previsti nella programmazione pluriennale per il 2016 e, da come abbiamo capito noi, restano quelli già previsti. Non ce ne sono di aggiuntivi con il DEF, ma quelli restano. Cominciamo proprio con Guido Castelli, che ringrazio per essere con noi a telefono. Buongiorno e grazie sindaco. Buongiorno caro Giannino. Se posso approfittare del linguaggio neurolinguistico di Renzi, lui non solo ha confermato che ci saranno e saranno mantenuti i tagli già previsti dalla legge di stabilità del 2015 per il 2016 e 2017, esatto, ha detto che non ci saranno, con voce stentoria, tagli, ulteriori tagli aggiuntivi a tasse aggiuntive per il momento, perché se a settembre i cicli economici dovessero imporre o consigliare ulteriori strette a carico dei comuni, potrebbero esserci. Quindi c'è un doppio sottofondo dietro le parole di Renzi. Resta il fatto che purtroppo già di per sé la condizione è quella che lei più volte ha anche tratteggiato, che insomma parte da un presupposto: i comuni non sono il paradiso dove tutto va bene. Io sono il primo a smentire la versione arcadica di chi sostiene che insomma tutto va bene ma da mala spesa, e si può sicuramente fare moltissimo ancora, soprattutto nei comuni molto grandi, però insomma il contributo che abbiamo dato non è poco. Noi siamo il 7,6% della spesa pubblica italiana, eppure abbiamo dato un contributo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica per 8,3 miliardi, quasi quanto le regioni, molto di più che le regioni a statuto speciale. Allora insomma este modus in rebus, posto che noi dobbiamo raddrizzare la schiena ulteriormente, che soprattutto quella parte dei comuni che ancora ha margini per fare meno spesa pubblica, ebbene lo faccia. Però pensare che il taglio facile, quello che subito si contabilizza che è a carico dei comuni, possa continuare, inevitabilmente potrebbe produrre quel riflesso pavloviano della richiesta di maggiore capacità fiscale, che noi dobbiamo evitare. Io sono concorde con chi dice che non possiamo ulteriormente procedere alla spremitura dei proprietari di proprietà immobiliare. Però pare di capire che l'ANCI, una delle cose con cui sta tentando di stare l'occhietto al governo, è: se ci fai restare, come dici, gli aumenti di tagli pluriennale, quindi anche quelli 2016 che erano già nelle tabelle previste allegate alla legge di stabilità approvata a fine 2014 per il 2015, beh, alla local tax, cioè la nuova addizione che dovrebbe accorpare la nuova IMU, TARSI, eccetera eccetera eccetera, e beh, quello diventerà il canale attraverso il quale recuperiamo parte dei tagli aggiuntivi che ci fate. È fondato o no questo sospetto? Perché purtroppo gli anni alle nostre spalle ci dicono che così va a finire, sindaco. Questa vulgata, che pure ha una sua credibilità e verosimilità, anche perché basta vedere all'indietro, ecco, è qualcosa che dobbiamo evitare. Io lo dico come delegato nazionale alla finanza locale dell'ANCI, che chiaramente ha una sua sensibilità, che può essere anche, come dire, difforme su un punto da quella di altri, però io parto da un presupposto, che innanzitutto sull'IMU TASI, su questa local tax che nessuno di noi conosce, ci sono due aspetti ancora in ombra. Il primo, si dice che si dovrebbe reinserire in questa unica imposta anche l'addizionale comunale all'IRPEF, di cui parlerà forse dopo il rappresentante Guglielmo Lois. Non è semplice fare questa operazione, o meglio, è semplice, come dire, se uno considerasse i comuni come fossero un comparto unitario, però switchare le varie addizionali, le varie percentuali su un'imposta immobiliare mi sembra, come dire, qualcosa di simile alla quadratura del cerchio, alla manipolazione del cubo di Rubik. Poi c'è un'altra questione che mi fa essere un pochino dubitabondo sulla questione della local tax, il fatto ovvero che ancora nella pancia dello Stato arrivano 5 miliardi di IMU relativa agli immobili diversi dalla prima abitazione. È quello il tema. A noi sarebbe sufficiente che fosse una volta per tutto chiarito che tutta l'imposta, tutto il gettito fosse nostro. Quindi da questo punto di vista potremmo evitare quegli odiosi inasprimenti se solo si evitasse. La vedo complicata, perché sa che quei miliardi sono necessari all'equilibrio dei conti pubblici. Naturalmente dal punto di vista dell'impostazione teorica e anche dalle conseguenze pratiche della scelta di dare più autonomia attraverso il cosiddetto federalismo fiscale alle autonomie ai comuni, voi avete perfettamente ragione. Però questo significherebbe da parte del governo dover fare tagli veri, quei tagli veri che non solo non fa, ma spaccia come virtù il deficit aggiuntivo del tesoretto fiscale. Avete capito che siete a casa? Il tesoretto è deficit aggiuntivo, la perculazione di chi ha cacciato il commissario alla spending review e dice che le sue non erano idee geniali, quelle di Cottarelli, cioè tagliare le partecipate, fare 3 miliardi di euro in meno dall'intervento sulle partecipate, quelle non erano idee geniali. Invece fare deficit aggiuntivo spacciato ai giornali come una cosa virtuosa, questa è un'idea geniale, e noi viviamo in un paese che gli batte le mani. E benissimo, battetele se volete. Torniamo tra un minuto, però io al sindaco di Ascoli, responsabile di finanza della locale dell'ANCI, devo anche chiedere il sovraumento dei biglietti per i viaggiatori a porti, aeroporti, per finanziare le città metropolitane, perché il governo centrale non ha soldi, non si può sentire. In un paese che vuole turismo, non si può sentire, cioè non possiamo, già paghiamo i biglietti per pagare la roba che ha avuto Banca Intesa su Alitalia e facciamo il sovrapprezzo per gli 8 anni di ammortizzatori sociali al personale Italia, adesso lo paghiamo pure per questo, non lo so. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta a fare il punto con i compari dei conti della belva. Carlo Alberto, Mario e Oscar. E oggi giriamo tutto intorno al DEF, come avete capito, perché questa virtù di deficit aggiuntivo spacciato per tesoretto non ci piace, e perché, come tentiamo di spiegarvi in questa parte della trasmissione, sono con noi il delegato tributario dell'ANCI, responsabile sindaco di Ascoli, Guido Castelli, e Guglielmo Lois, segretario confederale della UIL. Non ci piace nemmeno il messaggio che è passato: non ci sono nuove tasse, non ci sono tavi di spesa. Ci sono tutti quelli invece che erano previsti, ed erano aumenti appunto di tagli e aumenti fiscali al di là della clausola di salvaguardia, che da sola vale un punto di PIL, ma gli altri c'erano nelle tabelle pluriennali della legge di stabilità, e non ce ne sono altri oltre a quelli, dice il governo, che infatti fa più deficit, ma quelli restano. Allora vorremmo che fosse chiara questa cosa, e prima di passare la palla, avevo finito facendo una domanda sul fatto no alle sovrattasse per i viaggiatori portuali e aeroportuali per pagare quello che lo Stato ritaglia sulle città metropolitane. Però sentiamo un po' che cosa pensano i nostri ascoltatori, c'è qualche telefonata e poi qualche sms dai social e dal 3492386666. Cominciamo con Francesco da Roma. Francesco, prego. Buongiorno. Una cosa, io ho un po' perso di vista l'utilità della addizionale regionale e comunale, a suo tempo approvata per rendere i comuni autonomi, quando poi tutti i servizi li paghiamo extra. Che significa? Paghiamo due volte la stessa cosa? Paga, come dire, paga una parte del taglio dei trasferimenti che tocca soprattutto la spesa corrente tra centro e autonomie. perché circa un terzo, più di un terzo a dire la verità, del totale dei tagli di trasferimenti su spesa corrente tendenziale, perdonatemi, ma bisogna essere precisi, fatta in questi anni dal governo alle autonomie, è rientrato attraverso le addizionali. Quindi questa è l'amara realtà. Quindi questa è la mia risposta precisa alla sua domanda. Sentiamo Luciano da Lucca. Luciano. Buongiorno Giannino. Buongiorno. Buongiorno, no, io volevo dire questo. Bisogna non dimenticarci che a partire dal 1 gennaio 2015 per gli enti locali e anche per le regioni è entrata in vigore la contabilità armonizzata, le nuove regole contabili. Di fatto anche questo rappresenta un taglio alla spesa, perché tra l'altro è stato quantificato che a livello nazionale l'impatto delle nuove regole contabili equivalga a un taglio di spesa di circa 2 miliardi di euro. Quindi questo, diciamo, è un messaggio che mi sembra che non sia mai passato. Luciano, però in questo caso io devo essere serio, siccome ho seguito per anni la partita del fatto che eravamo uno dei pochissimi paesi al mondo a non avere criteri omologati per la parte di conto economico e patrimoniale dei bilanci, non solo delle autonomie ma anche per le ASL e così via, e il fatto che provochi risparmi di spesa dipende dal fatto che omologando i criteri si finisce per evitare una delle brutte tendenze attraverso le quali si travestiva da spesa per investimento, quella che emerge nella contabilità pubblica solo per cassa e non per competenza, quella che invece è la spesa corrente, che è uno dei tanti motivi per cui non riusciamo mai a sapere qual è il debito commerciale delle autonomie italiane. Quindi in questo caso io devo dirti che sono a favore non del fatto che ci sia il taglio in quanto tale, ma il problema è che si chiama pulizia di bilancio da criteri di bilancio trasparenti e omologhi, e quindi noi non potevamo continuare a stare nella condizione di prima. Allora, Castelli, mi dà una risposta, ma questi aumenti di tasse portuali e aeroportuali ci saranno secondo lei, sindaco di Ascoli? Erano già previsti in una legge del 2012. Lo so. La cosa assurda è che si fanno le città metropolitane, si fa la riforma del Rio, poi dopo due mesi si appioppa sulla riforma e sugli enti che ne sono la risultante anche il taglio. Questa è la versione schizzoide dell'atteggiamento della Retinomics, perché vogliamo fare la riforma ordinamentale, bene, la facciamo, ma se poi su questi enti nuovi in itinere metti ulteriori tagli invece che metterli ai ministeri, perché lei mi insegna, perché l'ho letto sempre nel suo blog, che il contributo chiesto allo Stato centrale è stato un terzo di quello chiesto alle autonomie, che ripeto non sono il paradiso delle URI fiscali e della legittimità contabile, però bisogna dire che quello che diceva Luciano è stravero, che già di per sé il solo fatto della nuova contabilità doverosa, giusta, che noi abbiamo sposato entusiasticamente anche con molta fatica, produce un taglio aggiuntivo, o meglio una minore spesa, di 3 miliardi. Lei ci metta il 1,5 miliardi che già è il frutto della legge di stabilità e del decreto 66, e noi quest'anno diamo 5 miliardi allo Stato, ma non le sembra troppo? Poi è evidente che per evitare di chiudere le mente, quelli che la spending l'hanno fatta veramente, perché vede, nella latitudine della sua trasmissione deve anche considerare che ci sono sito www.spesa.gov.it dei comuni che probabilmente ancora hanno margine, ma quelli che la spending l'hanno fatta davvero con la schiena dritta, tipo il mio comune di Ascoli, e sono quelli che soffrono di più, perché poi il taglio riguarda indistintamente tutti, perché tagliare i comuni è facile, è immediato, ha quella rapidità che tanto piace al Premier Renzi. Allora, i nostri invece, al di là delle telefonate, da Twitter e dai social, qualcuno che... Ma c'è il dottor Panato, Arrigo Andrea, che scrive su Twitter: sentir parlare di tesoretto invece che discutere di ritorno dell'IVA al 20% segna il vero limite del governo Renzi. Ed è un tema corretto, in effetti, qui si parla, come dire, di disporre di nuove arbitri contabili, quando in realtà ciò che tocca la spesa degli italiani è poi la tassazione sui consumi, anche se io devo togliere tutte le illusioni, secondo me la tassazione dei consumi è qui per restare, anzi per crescere, sì. Clausole di salvaguardia o meno, e le linee sono chiare, deve decrescere quella sui fattori produttivi, ma deve crescere quella, o crescere o almeno rimanere uguale quella sui consumi, non illudiamoci. Però io trovo molto interessante che la replica a questa osservazione di Andrea Panato venga da, sempre su Twitter, da una persona che dice: ma lei è rimasto indietro, non ha letto che le clausole di salvaguardia sono state disinnescate, per la serie, non non guardarmi non ti sento. Esatto. Scusate, qui c'è differenza tra il tendenziale e la realtà, perché se voi avete la sindrome di Stoccolma e dite oddio che bello, l'IVA resta al 22%, quasi quasi esco e vado a spendere, quando in realtà la persona vi ha detto sì ma veniamo dal 20, cerchiamo di tornare al 20, vuol dire che la sindrome di Stoccolma funziona perfettamente. Esatto. Poi Oscar, una piccola precisazione la dobbiamo. Scrive su Twitter il dottor Roberto Basso, che notoriamente è portavoce del ministro Padoan, che precisa: le clausole di flessibilità dell'Unione Europea sono tre, l'Italia invocherà quella sulle riforme strutturali, non sulle condizioni estremamente sfavorevoli di ciclo. Prendo atto, è una precisazione importante, quindi va condivisa anche con gli ascoltatori. Resta però la mia valutazione di fondo, questa è politica, pura politica. Sì, certo. Andare a Bruxelles e chiedere una correzione mignon di 0,1%, può darsi che possa avvenire, magari per quella data la Francia sarà ancora ulteriormente aggravata nelle sue condizioni, quindi ci tirerà la volata, però diciamo è utile segnalare che stiamo chiedendo un'assenza di correzione strutturale e con questo noi pagheremmo circa fino ad un massimo della metà delle clausole di salvaguardia sul 2016. Cioè, è per tutto legittimo che lo faccia il governo, basta spiegarlo chiaro a chi ci ascolta e basta capire che è una scelta politica quella di continuare a dire rinviamo il rientro e facciamo più deficit. Comunque grazie, molte grazie a Basso, al portavoce del ministro, che ormai ci onora, che ci segue, che ci segue strutturalmente, come un'ombra, diciamo. Ma questo ci fa per piacere. Me è un motivo di grande piacere e voglio ringraziarlo. Anch'io. Perché significa che veniamo innanzitutto considerati come livello tecnico delle nostre osservazioni, ma grazie anche a lui, perché sabato mattina capisco, per il governo di cui fa parte non è così scontato che si metta ad ascoltarci, quindi grazie, grazie, grazie. Ma a questo punto andiamo a chi bisogna ringraziare, perché guardate, l'ufficio studi della UIL, sindacato, dà molta polvere a molti centri studi, diciamo, di imprese, dal punto di vista di una raccolta di dati sistematica nel tempo su come sta andando questa grande sberla che è stata la fiscalità locale aggiuntiva in questi anni. E quindi il report di questa settimana, che dà conto di come le addizionali si siano aggravate in questi anni, è stata la maniera fiscale dello Stato centrale per travestire il fatto che lui non picchiava troppo, e perché delegava gli altri a picchiare con i tagli, recuperando i tagli che gli faceva. Allora, Guglielmo Loi, qual è la sua impressione sul DEF innanzitutto? Sì, è esattamente questa, mi sembra, non si usava un tempo dire preelettorale, cioè mascherare il tesoretto come una conquista e non come deficit è veramente abile dal punto di vista mediatico. Per fortuna c'è qualcuno che stimola le persone a ragionare, e le istituzioni speriamo, e parlare con nome e cognome. Qua si sta parlando di un'ulteriore operazione di denaro che sarà immesso nella spesa pubblica, che pagheremo non so come, non so quando, successivamente. Comunque è così. Ma invece sulle addizionali locali, le norme in realtà già stabilite e che restano, come abbiamo spiegato, di aumento delle addizionali, diamo due numeri di come è andata sulle addizionali regionali e comunali in questi ultimi anni, quelli del vostro rapporto. Ma esattamente, continuano a crescere, ovviamente ricordo che essendo una tassa regionale non è omogenea dappertutto. Quindi si distingue con nettezza le regioni non tanto virtuose, ma che hanno nel passato o recentemente messo mano al deficit sanitario, che è la vera cloaca per il quale poi scattano tutti gli aumenti fiscali. Quelle regioni che hanno affrontato il tema in tempo riescono a contenere l'addizionale a livelli decorosi, quelle che non l'hanno fatto ogni anno sono a rischio aumento, e quindi il dato che emerge appunto è che anche quest'anno, in una situazione in cui la legge non prevede un aumento dell'aliquota, non prevede però neanche il blocco dell'aliquota precedente, quindi chi stava sotto il 30-33, che è l'aliquota massima, può salire. E questo, guardate, varrà anche per la TASI, perché il governo ha annunciato che ha bloccato gli aumenti, ma non ha bloccato gli aumenti, esatto, ha bloccato l'aliquota massima, esatto, e quindi non sappiamo cosa succederà per chi stava sotto quell'aliquota. Lo schema è un po' simile, in più c'è il problema appunto delle regioni in deficit sanitario. insomma, io dico solo un numero, adesso purtroppo è il caso mio, ma credo anche molti di voi, insomma, abitiamo a Roma. È vero che uno dovrebbe distinguere la regione dal comune, ma il risultato qual è? 4.23% tradizionale, comunale, regionale per un reddito decoroso, non stiamo parlando di milionari, insomma, chi sta intorno ai 30-40 mila euro andrà a pagare il 4.23% di tasse sul reddito delle persone fisiche. Famose ricche. Quindi quando si dice non aumentano le tasse, bisogna prendere una busta paga di un cittadino romano, esatto, che ha la fortuna o la sfortuna di stare in questa città e si ritrova due voci, addizionale comunale e regionale, 4.23%. Allora, per capirci, cari ascoltatori, ieri io ho postato su Twitter un articolo sintetico uscito su Bloomberg sulle medie, sulle aliquote medie, mediane e marginali dell'imposizione fiscale IRS, quella della l'Agenzia delle Entrate degli Stati Uniti nel 2014. L'addizionale IRPEF comune e regione, comune Roma e Lazio Roma, vale da sola 4,3%. Allora, negli Stati Uniti d'America il contribuente nell'anno 2014 come aliquota media sul reddito federale ha pagato il 10%. La sola addizionale che c'è a Roma sulle aliquote nostre è quasi metà dell'aliquota media pagata da milioni di contribuenti americani. Per aliquota media, naturalmente, è la statistica di Renzi, dei polli di Renzi. Esatto, sì, sì. Naturalmente, però guardate che l'aliquota marginale sul reddito massima è il 28% negli Stati Uniti, ma l'aliquota media pagata è del 10%, che diventa del 19,8% aggiungendoci i contributi sanitari per la Social Security. Queste sono le tasse medie negli Stati Uniti. Capite che bisogna spararci al confronto, purtroppo, e continuiamo a raccontarci che da noi non crescono più, viva, viva, viva. Crescono così e continueranno a crescere così, anche se vi hanno detto che non è vero. Peccato che sia già deliberato in termini pluriennali, mentre invece vi fanno non scattare la clausola di aumento dal 22 al 24% dell'IVA, e questo diranno che è una grande virtù, ma quell'aumento l'avevano stabilito loro, quindi comunque e le tasse locali aumenteranno. Ci sentiamo tra un minuto. I conti della belva. Eccoci qui tornati in diretta, cari ascoltatori, Radio 24, i compari Conti la Belva vi salutano. Carlo Alberto. Mario. Oscar Giannino, il quale stava dicendo nella pausa che nel frattempo noi non vorremmo che voi pensaste che siamo, per così dire, ossessionati dall'idea di parlare male del governo. No, perché anche in questi minuti di pausa, ma questo penso lo faremo sabato prossimo, stiamo commentando su quello che intanto avviene in alcuni segmenti del nostro mondo bancario italiano, perché tra il comunicato dei mercati chiusi su MPS e, come vedete, i tagli radicali del valore delle azioni mai trattate sul mercato delle grandi popolari che tanto starnazzavano per il cambio di forma giuridica che a loro giudizio non doveva essere loro imposto, beh, quello che avviene nel mondo bancario italiano nella grande disattenzione dei media anche lì, e insomma è la prova provata, ma la grande danni, attenzione degli italiani a questo punto è quello che rimane nel loro portafoglio, perché la verità è che alla fine di questo grande ciclo si ritroveranno molto più poveri, e questo è un fatto, purtroppo. Peccato però che per anni quelli non hanno voluto dare retta ai pochi che dicevano che quei valori delle azioni decise a tavolino delle grandi banche popolari non avevano alcun riferimento rispetto alla qualità dei loro asset e alle prassi che seguivano di differire write-off e così via, perché chi scriveva queste cose veniva trattato come un paria, capite? So di che cosa parlo, visto che ero esattamente uno di quelli. E adesso però che la cosa, che il tempio crolla, e purtroppo le colonne del tempio vanno sulla testa degli azionisti che ci hanno creduto, degli obbligazionisti che hanno convertito in azioni di quelle banche, tutto resta nelle pagine tecniche come se non fosse invece la prova di un paese schifosamente in mano a bande nei confronti della quale la grande informazione è spesso, mi dispiace dirlo, connivente, lo dico tre volte, perché siccome io amo il mercato e sono liberista, non mi piace vedere la connivenza in chi invece violenta il mercato, perché i grandi signori di alcune banche popolari questo hanno fatto per anni. nell'applauso dei media e prendendo per il culo azionisti, obbligazionisti e così via. Bene, se pensate che la colpa adesso sia dell'Europa, come molti di voi immagino faranno, siete liberi di continuare a farvi perculare nella vita, perché di questo si tratta. Perché guardate, non è finita, vero Carlo Alberto? Non è finita. No, assolutamente, è solo l'inizio. Adesso vedremo uno sconvolgimento sul mercato, sicuramente delle popolari che saranno costrette a cambiare governance, cambiare assetto, a fondersi, e poi a quel punto i concambi e i valori voglio proprio vederli, e a quel punto non vari più, capisci? Esattamente. Vabbè, comunque, detto questo, per farvi capire che non ce l'abbiamo solo col governo e così via, abbiamo chiesto, tra le diverse opinioni che si stanno alternando stamattina sulla cornice disegnata dal documento economico finanziario, e una volta che vi abbiamo spiegato che tesoretto è deficit aggiuntivo, anche un'altra voce diversa da quelle che si aggiunge a quella che abbiamo già sentito, ed è con noi, e molto lo ringrazio, il professor Enrico Colombatto, che insegna politica economica all'Università di Torino. Io amo molto Enrico Colombatto e i libri che scrive, perché insomma è uno di quei liberali veri, teorici e pratici, per così dire. Insomma, nelle cattedre italiane non sono in tanti a pensarla così, quindi doppio grazie per dedicarci questi minuti il sabato mattino, professor Colombatto. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Allora, dall'idea che ha potuto trarre dall'informazione fin qui relative al DEF, qual è la sua opinione sulle previsioni generali che fa questo documento e sulle scelte di fondo di diluire ulteriormente il rientro del deficit e del debito, presentandolo come una cosa positiva? Dunque, il dato essenziale che a me è parso di cogliere è questo. Questo documento prevede una riduzione del peso del servizio del debito, in sostanza gli interessi sul debito pubblico, di 0,5 punti percentuali. Cioè, sostanzialmente si passa da un 4,7 del 2014 al 4,2 del 2015. Il famoso bonus Draghi, vogliamo dirlo, quello è un bonus, sì, vero. Ecco. Caso strano, questa è esattamente la differenza fra il disavanzo pubblico in percentuale del PIL tra il 2014 e il 2015. Soltanto che, siccome non sono capace a fare i conti molto bene, poi si sono resi conto che 3% meno 0,5 fa 2,5, non 2,6, e quindi si sono trovati questo 0,1 di spesa imprevista in meno che è diventata il tesoretto. Quindi, per riassumere, nel 2014 non è stato fatto praticamente nulla di strutturale, nel 2015 non sarà fatto assolutamente nulla, ci stiamo mangiando il regalo di Draghi, come si diceva poc'anzi, cioè quel 0,5% è la, diciamo, virtù del governo attuale, virtù che in realtà uno non è merito loro, ma di Draghi, due, è tutto da discutere se è un merito o no, perché teniamo presente, questa è una bomba a tempo, cioè i tassi di interesse sono stati tenuti artificiosamente bassi per anni. Chiamiamola repressione finanziaria, che forse è il nome corretto, no? Sì, ed è una truffa sostanzialmente, che andrà avanti ancora forse per un anno e mezzo, fino a quando il quantitative easing continuerà, ma poi appena i tassi si alzano la bomba esplode. Ma professore, ma quando i tassi si rialzeranno, naturalmente chi ha diluito in questi anni, ammantandosi però del mantello della virtù, anche se diluiva il tempo di rientro del deficit del debito che gli sarebbe consentito le tasse così basse, direi naturalmente che la colpa è della Banca Centrale Europea e dell'Europa che rialza i tassi, perché sarà scontato che si dica così, no? Ah, certamente, a questo punto arriverà qualche haircut, come dicono gli inglesi, cioè una sorta di default o comunque tassa patrimoniale occulta, perché i soldi da qualche parte devono saltare fuori. Infatti, in realtà la repressione finanziaria si chiama così perché spesso è la premessa in altri paesi che hanno affrontato crisi simili, esattamente per quello che poi ci ha adesso prospettato il professor Colombatto, cioè per fare una bella patrimonialona, perché quando si innalza la quota degli detentori nazionali del debito pubblico, come è massicciamente in corso nel nostro paese, alla fine la tentazione della politica questa è. Allora, abbiamo anche il professor Colombatto allineato su una lettura, diciamo, un po' disomogenea rispetto a quello che prevale sui media fino a questo momento del DEF. Sentiamo Francesco dalla provincia di Chieti. Francesco, prego, come la pensi? Salve, buongiorno. Io volevo fare una domanda. Noi adesso stiamo affrontando un periodo molto pesante. Io sono operaio, ho tre figli, Volevo sapere, non è che facciamo che una volta usciti da questo tunnel siamo una bella galleria oscura, sapendo tutti di cercare di uscire da questo brutto periodo, ma in realtà una volta che si dovrà, si spera, a raggiungere una situazione più tranquilla, dove saremo? È interessante sapere non solo adesso come uscire, ma dove entreremo? La ringrazio. Francesco, ma fai una domanda però di quelle... Posso dire io, usciremo dal tunnel, il problema è che è fuori, è buio, quindi cioè, questa è la verità dei fatti. E quindi non aspettiamoci dal governo una soluzione che in realtà richiede A, consapevolezza che ci viene negata dal governo dei media, B, una profonda revisione di come allochiamo il nostro patrimonio, il nostro risparmio, il nostro modello organizzativo. Mi spiace, ma cioè, anche qua dar tutta la colpa al governo è sbagliato, mi spiace dire. Però è giusto sottolineare che noi stiamo in queste circostanze beneficiando di una serie di allineamenti astrali esogeni, dal cambio dell'euro, un altro effetto delle scelte di Draghi, all'abbattimento degli oneri annuali sull'interesse sul debito pubblico, al petrolio e così via, e l'utilizzo che sappiamo farne è diluire e diminuire l'intensità del percorso di risanamento. Quando poi queste cose spariranno come inevitabile, con chi ce la prenderemo? Cosa diremo? Che fine farà quella virtù? E la politica, come sempre, dice: beh, chi ci sarà ci penserà a quel punto. Ecco, questa è la tragedia. La Seconda Repubblica, mi dispiace, anche Renzi, al quale io ho molto creduto e continuo ad avere un grande affetto per lui, questo è il sistema Prima Repubblica pieno, cioè non vedo alcuna differenza tra questo e il metodo Pomicino. Andare avanti di mese in mese, ogni elezione, ogni volta dando una mano di biacca a dei numeri per fargli dire cose leggermente diverse da quelli che questi numeri sono. Però detto tutto questo, Io però voglio chiedere un commento a Colombatto sull'uso di questo famoso tesoretto, perché qui già si vocifera un uso ovviamente strutturale, cioè c'è un ipotetico tesoretto congiunturale, che in realtà è una differenza algebrica fra due arbitri, che vuole immediatamente essere impiegato per usi strutturali, cioè diventare spesa pubblica blindata. E così poi la paga il contribuente. Volevo capire da Colombatto che cosa ne pensa. Ha ragione, è una follia. Cioè, noi stiamo vivendo al di sopra delle nostre possibilità, perché tutte le volte in cui c'è un disavanzo vuol dire che stiamo vivendo al di sopra delle nostre possibilità. Nel momento in cui abbiamo la possibilità di ridurre un pochino il nostro spreco, ci inventiamo, c'è la corsa a cercare come sprecare meglio e sprecare di più. E a sprecare soldi per sempre, questa è la verità, oltretutto, a sprecare permanentemente. Noi abbiamo un obiettivo che di disavanzo pubblico che è 2,6, ma non è che quello sia da raggiungere a tutti i costi. Se per caso riuscissimo a spendere un po' meno e arrivare al 2,5, al 2,4, non sarebbe poi la fine del mondo. Teniamo presente che, come diceva Giannino 3 secondi fa, noi in questi mesi abbiamo 3 regali pazzeschi e stiamo sprecando: il petrolio, i tassi di interesse e il dollaro forte, o se vogliamo l'euro debole. Con questi regali, che sono enormi, mi pare che la Confindustria stimasse il contributo di questi regali a oltre il 2% di crescita, se noi non avessimo questi regali, in sostanza saremmo a meno 1,5% di crescita. E quindi questo dà l'idea dell'impatto di queste cose e di come dovremmo moltiplicarne la capacità nostra di saperle mettere a frutto. Vabbè, siamo in minoranza, la pensiamo diversamente. Grazie al professor Colombatto, torniamo tra poco con Renato Cifarelli e il Non si può fare. Della belva. Eccoci qua per il nostro tour finale qui dei Conti della Belva. I compari vi salutano Carlo Alberto, Mario e Oscar Giannino, e abbiamo con noi anche il nostro Renato Cifarelli. Ci sei, Renato? Non c'è ancora, Renato? C'è o non c'è? Renato, ci sei o non ci sei? Ci sono, pronto. Eccoci qua, pronto. Allora, dacci la tua rapida idea prima del dirci l'ennesimo esempio non si può fare sul DEF. Come sei felice del tesoretto oppure no? No, io stamattina sono caduto quasi dalla sedia quando ho letto il giornale, perché sono arrivato alla pagina dell'economia mentre facevo colazione. Ma perché tu leggi il giornale sulla sedia? Non lo leggevi sulla Harley, fammi capire. Di solito l'Harley ha proprio il manubrio apposta per leggere il giornale. Non fate polemiche tra centauri. non prendere in giro che sono seduto sull'Arle in questo momento. No, però quando io ho letto che questi pazzi furiosi vogliono aumentare i contributi per finanziare la diminuzione dei contributi, cioè, io sono quasi caduto. Cioè, ma no, è la terra del surrealismo, Renato, c'è poco da fare, è la terra del surrealismo. Io ho detto, questi, non so, o sono matto io probabilmente a rimanere in questo paese a fare industria, oppure sono pazzi loro, perché cioè, io non riesco neanche a capire come ci possa venire in mente. Allora, vogliamo fare i cortesi, i gentili, tutto quello che vuoi, prendiamo chi ha 2, 3, 4 pensioni e ce n'è più di uno, lo sappiamo in Italia, e la seconda, terza, quarta facciamogliela fare col contributivo, fine della storia, se proprio dobbiamo risparmiare dei soldi sull'INPS. Ma aumentare nel paese che ha il più alto in assoluto cuneo fiscale ancora i contributi a carico delle imprese è un po' come quando tolgono i soldi ai comuni e poi dicono le tasse nazionali non certo. aumentano, le aumenta il comune. No, si chiama faccia come il culo. Io sono brutale a questo punto. Cioè, il Capitan Ganassa, gli uomini di Capitan Ganassa hanno la faccia come il culo. Mi dispiace usare questi termini, però si tratta anche di essere proporzionati alla gravità della presa per i fondelli. Capite, cari ascoltatori? Perché se. No, ma poi. La cosa terribile è questa. Allora, un'azienda che va bene, ce ne sono anche tante in Italia, per fortuna. Ci sono tante medie aziende che sono cresciute, che hanno aumentato le persone negli ultimi anni, devono finanziare la trasformazione di quelli che invece avevano magari 10 contratti non a tempo indeterminato, perché lo Stato ha deciso di favorire le nuove assunzioni e quelli e gli stupidi come me che hanno avuto la gente l'hanno pagata anche nel periodo peggiore. Si chiamano cornuti e mazziati, perché il problema è che quando uno Stato è sempre scorretto, resterà sempre scorretto. Questa si chiama, si chiama solidarietà, la parola che ha mandato nella neurolingua. La parola che ha mandato a puttane un intero paese, solidarietà. Tradotto in neurolingua si chiama solidarietà, però... di fatto, caro Renato, se tu ti sei comportato bene prima e adesso ti chiedi ma come lo Stato che dice di contribuire perché adesso così faranno arrivare ad avere contratti più stabilizzati quelli che prima non li utilizzavano e adesso è lo stesso Stato che mi dice che io devo utilizzare la mia leva di aumento dei contributi per finanziare questo, però non ti sorprendere, dovresti sapere che è uno Stato scorretto. Il problema è che secondo me siamo un po' troppo tutti conniventi con questo livello di scorrettezze. Caro Alberto, però qual è il livello, oltre a tu sei tenuto anche a una dignità accademica perché insegni in una prestigiosa università, io il problema che mi pongo sempre, il giornalista può permettersi di essere più esplicito, io lo sono sempre, sbaglio, non me ne frega niente, ma nel tuo caso come economista che insegna ai giovani e così via, qual è la sottile soglia in cui alle gravità che vengono dissimulate, messe in atto dallo Stato, come risponde il professore, qual è il limite che si deve dare? Sì, non vado a dire parolacce in aula se questo che vuoi sapere. La verità è che io ho la fortuna di essere per fortuna ragazzi di almeno una cinquantina di nazioni, per cui le miserie italiche sono fuori dall'oggetto della mia discussione in aula. Però ecco, il dovere della trasparenza ce l'abbiamo tutti e ce l'hanno invece non solo i giornalisti, ma ce l'hanno soprattutto i ricercatori e gli studiosi, che devono mettere in riga i numeri e devono inchiodare come fa da sempre. Fare da sempre una classe accademica che ha il compito di fare ordine. Certo, non può commentare all'immediato, questa è la differenza importante. L'Accademia ha bisogno di tempo, di serie storiche, di analisi longitudinale, quindi non riusciamo mai a arrivare con i nostri numeri in tempo. Possiamo partecipare al dibattito con beneficio di inventario, perché i numeri con cui normalmente lavoriamo non sono ancora disponibili. Questo però non ci toglie dall'obbligo di essere chiari nello smentire le ipotesi, le assunzioni di fondo che stanno alla base di questa propaganda ideologica. Allora abbiamo ancora una telefonata, Eugenio da Parma, che mi sa che ci deve dare proprio un ulteriore esempio di come lo Stato dice che le tasse non ci sono eppure ci sono e come, perché stiamo parlando del settore dei giochi, è vero Eugenio? Sì, diciamo, ho messo un addizionale di 500 milioni come riduzione dei viaggi, cioè dei guadagni dell'anno scorso sulle macchine dell'anno scorso, una tantum, usando come motivazione la delega fiscale che dice però che la riduzione deve essere proporzionale. quindi ci troviamo a pagare delle tasse su dei guadagni retroattivamente a chiusura dei bilanci, non sappiamo nemmeno come metterla fiscalmente questa cosa. Ripeti un po', vi trovate a pagare delle tasse? Non sono tasse, se non le chiama tasse. Esatto, lo so che non le chiama tasse, però lo sono. Lingua, diciamo. Ecco, esattamente. La riduzione degli aggi, che tra l'altro non sono aggi, esatto, imputate ai concessionari, che sì, però non sono loro li versano, ma chi li raccoglie sono 4.000 gestori in tutta Italia, quindi li imputa loro, li chiede a noi. Questo sull'anno 2014? 2014. Quindi sì, retroattivamente. Perché retroattivamente, chiuso... però sarà anche per il futuro. Quindi esatto, 2015, 2016, vogliono 2 miliardi e mezzo, pur chiedendo poi una riduzione di 80.000 macchine nei bar. Quindi non so come faremo. Allora, io te l'ho voluto oggi solo far dire, perché poi in realtà ci facciamo una versione di Oscar in settimana sopra, perché questo è un tema su cui molta gente dice bisogna prendere tutto a quelli che fanno il nucleo di tenere la dipendenza. La realtà, però, qui stiamo parlando della tecnicalità, che capite che dire mezzo miliardo a chi ha già i bilanci chiusi è una follia, ecco, e questa è un'altra maniera con cui la politica secondo me non sa proprio come si tratta con le imprese. E sapete cosa c'è? Quando c'è sopra un timore sociale o un pregiudizio sociale, come nel caso del gioco, allora picchia ancora più brutalmente per prendere cassa, dicendo cazzi vostri, avete chiuso il bilancio, chi se ne frega, voi i soldi me li dovete dare comunque. Questo è il criterio. Allora, io ringrazio anche Eugenio, gli do appuntamento, la settimana ci risentiamo. Ma intanto grazie Renato Cifarelli, grazie ai miei amorevoli compari dei Conti e della Belva, sì, il tesoretto Carlo Alberto, il tesoretto Mario. E il gufetto Mario, ci hanno fregato. Continuate con Radio 24, appuntamento con i Conti e la Belva sabato prossimo.